Ciao angeli di luce. Oggi procederemo con la meditazione dei fari di luce. È la nostra meditazione della domenica sera. L'obiettivo è accendere la nostra luce interiore affinché si irradi tutto attorno a noi, portando benessere, guarigione dalle malattie e infonda energie positive a tutti i nostri progetti in corso e futuri. Mettiamoci comodamente seduti, con i palmi delle mani sulle cosce, poco prima delle ginocchia. La schiena dritta, ma non rigida. Il tuo sguardo dritto di fronte a te. Se puoi, siediti guardando il nord magnetico, anche approssimativamente. Se non sai dove sta il nord della tua casa, immaginalo. Immagina un ago della bussola di fronte a te che segni il nord. Adesso, se preferisci, chiudi pure gli occhi. Adesso respira. Ispira lentamente con il naso e butta fuori l'aria velocemente dalla bocca. Adesso un altro respiro lento e rilassante. Ispira ed espira l'aria lentamente. Un altro respiro lento che gonfia l'addome e elimina l'aria lentamente, sgonfiando il tuo addome. Adesso, mentre respiri, immagina un'aria fresca che entra dalla sommità del tuo capo, dal settimo chakra, che è detto anche il chakra della corona. Ispira quindi dalla testa ed espirando immagina invece come se l'aria uscisse riscaldata dal tuo ombelico. Segui per un po' questa respirazione, focalizzando alternatamente la sommità del tuo capo per l'ingresso dell'aria e l'ombelico per la sua fuoriuscita. Continua così a respirare e rilassarti. Immagina adesso una corda legata ai tuoi capelli o alla testa. Questa corda scende dietro lungo la colonna vertebrale. La tiri un po' e manterrà la tua testa dritta e in posizione comoda. Continua a respirare e a rilassarti. Adesso gonfia i polmoni e apriti all'energia della luce. Concentrati adesso sul primo obiettivo. Noi vogliamo portare luce ed energia positiva nel nostro circostante. ciascuno di noi è come un faro di luce viva che illumina a 360 gradi tutto intorno, finché la nostra luce non raggiunga un altro faro come noi e si amplifichi per legge di risonanza. Immagina adesso una luce che sgorga dal tuo addome. Dapprima è una sfera luminosa e dorata. La sfera si gonfia e cresce. Ricolma tutto il tuo corpo, che lo senti adesso vibrare come attraversato da una leggerissima scarica elettrica. Immagina adesso la sfera riempire la tua stanza. E tutta la tua casa. Immagina questa sfera espandersi per la zona dove è posta la tua casa. Immagina la strada antistante al portone. Lì è pieno della tua luce. Immagina te stesso adesso dentro questa sfera di luce. Sei davanti al tuo portone di casa. Sei pronto per iniziare a correre, per portare la tua luce tutto intorno. Sei come una fiamma ardente dorata e tu sei la torcia che l'accompagna. Adesso inizia a muoverti liberamente e a correre velocemente. Corri. Adesso staccati da terra e inizia a volare per ora basso e lungo le strade del tuo paese o della tua città. Vola lungo le campagne buie per la sera e illumina tutto intorno a te. Porta la tua luce. A tratti scorgi altre luci. Sono luci simili alla tua. La tocchi e la illumini. La illumini della tua stessa luce. E tutto risplende maggiormente. Continui ad aleggiare. Scorgi altre luci. Le tocchi e le illumini. E illumini tutto il circostante. E procedi e via via vai per accendere altre luci. E tutto intorno si illumina. Ripeti mentalmente: io voglio irradiare energia di luce nel mio circostante. Adesso rimetti i piedi per terra, sull'erba fresca e riposati un po'. C'è un grande albero, poggia bene le tue spalle e rilassati. Ci concentreremo adesso sul secondo obiettivo. noi vogliamo inviare energia di guarigione. Che facciamo a noi stessi in caso di patologie o problematiche inerenti alla nostra salute e al nostro benessere psicofisico. Inoltre vogliamo inviare a tutti i componenti di questo gruppo energie di guarigione. Ripeti mentalmente. Io voglio guarire dalla patologia che sto per dire. E voglio che gli altri guariscano attingendo la nostra comune energia. Apri adesso le mani con i palmi rivolti in alto, verso il cielo, con le braccia distese e invia la tua luce per la guarigione di tutti, adesso. Senti questa luce che si trasferisce a chi ne ha bisogno. Senti dentro te i benefici di questa luce. Senti operare la nostra guarigione. Abbassa pure le braccia nuovamente sulle cosce e continua a sentire l'energia di guarigione. Infine, focalizziamoci su noi stessi e sul terzo obiettivo. Noi vogliamo infondere luce, energia positiva di riuscita ai nostri obiettivi e desideri. Fissa nella tua mente il tuo desiderio o i tuoi desideri. E ripeti mentalmente. io voglio realizzare questo mio desiderio. Puoi dichiararlo ora. Ripeti questa frase a lungo. Io voglio realizzare. Visualizza adesso una sfera di luce dorata formarsi dentro il tuo cuore. La vedi aumentare di volume mentre respiri più forte e a pieni polmoni. E cresce. E la senti esplodere sul tuo desiderio e sui tuoi obiettivi. Che adesso sono pieni di luce dorata. È una luce che risplende da te, che traspira da te, dalla tua pelle. Riempi il tuo desiderio. Il tuo obiettivo e gli consente la riuscita. Ora. Ripercorre mentalmente il tuo desiderio e il tuo obiettivo. Grazie, grazie, grazie, grazie. Diciamolo ancora a voce alta. Grazie, grazie, grazie, grazie. bene. È fatta, è fatta, è fatta. I nostri obiettivi sono soddisfatti. Prendiamoci questi minuti residui per il nostro rilassamento. Facciamo intanto strada verso casa. Thank you. inizia ad aprire gli occhi, a riprendere conoscenza, a sentire il tuo corpo e a percepire le sensazioni rimaste da questa lunga meditazione. Un abbraccio di luce a te, o angelo. Namaste.